2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 27 giugno 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it nelle pagine di 2024 e come sempre vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Ad esempio con iTunes, all'interno di iTunes c'è la possibilità, utilizzando l'apposito indirizzo che viene fornito sul nostro sito internet, appunto di abbonarvi al servizio podcast. In questo modo avrete la possibilità di scaricare automaticamente settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Da poche ore sul sito internet di 3 c'è l'offerta, l'attesa offerta per l'iPhone dopo quelle presentate da TIM e di Vodafone. Un'offerta che non poteva che essere più aggressiva rispetto ai concorrenti, tutti i dettagli li trovate su 3.it. Sempre per quanto riguarda il mercato della telefonia mobile, vi segnalo l'uscita imminente a luglio del nuovo Hero di HTC, un nuovo terminale basato sulla piattaforma Android di Google. E proprio sulle piattaforme, anche sul software, si contenderanno il mercato i produttori di telefonini, ma non solo, di applicazioni, di software. E anche per questo motivo Intel e Nokia, rispettivamente numero uno nelle tecnologie basate sul silicio e numero uno nella produzione di telefonini e smartphone, hanno annunciato in settimana una collaborazione per sviluppare nuove tecnologie per il cosiddetto mobile computing. In passato c'erano già stati due tentativi di collaborazione, in questo caso si lavorerà allo sviluppo di nuovi chip e anche su una nuova piattaforma software basata su Linux. Rod O'Shea, responsabile Embedded Division di Intel Europa, dice che se guardiamo lo sviluppo di Internet, oggi Internet ha 1,6 miliardi di utenti nel mondo, più delle linee telefoniche e delle automobili. Pensiamo che ci sia una straordinaria opportunità, dice O'Shea, per offrire una piena e ricca capacità di navigare in Internet. Oggi molti utenti non possono ottenerla, sia per mancanza di potenza di calcolo sul proprio terminale o per l'impossibilità di avere un'adeguata connessione. Pensiamo quindi che questo sia un buon campo di collaborazione. Mano a mano che Internet diventerà più pervasivo, fornire il top delle capacità di calcolo e il top delle connessioni. Top computing and top communications capabilities. Questo dunque è l'accordo tra Intel e Nokia, non sono stati forniti maggiori particolari, vedremo nel corso dei prossimi mesi o forse nei prossimi anni, ma molto presumibilmente nei prossimi mesi, vista la velocità con cui arrivano notizie dal mondo della telefonia, quali saranno i risultati di questa collaborazione. Dal prossimo mercoledì, a meno di ripensamenti, la Cina imporrà ai produttori di PC in vendita sul territorio cinese di installare un filtro chiamato Green Dam, quindi la barriera, la diga verde, un programma software in grado di selezionare i contenuti della rete. Secondo le autorità cinesi, il filtro servirebbe per arginare la pornografia, ma è evidente che sia un sistema di censura che dovrebbe bloccare anche tutti i siti internet e i contenuti non graditi al governo di Pechino. Alcuni esperti che lo hanno provato dicono che il software non solo rallenta tutte le operazioni sulla rete ed espone i computer anche ad attacchi dei virus, ma che sarebbe copiato da quello concepito dall'americana Solid Oak per la protezione degli utenti minorenni di internet. La Solid Oak ha minacciato di querelare per plagio l'impresa cinese che ha lanciato Green Dam. A tutto ciò si aggiungeranno, pensate, decine di migliaia di volontari che le autorità stanno reclutando per monitorare i contenuti di internet. In Cina lavora già una schiera di censori che si occupa di verificare i contenuti online e di bloccare i siti e le chat che veicolino contenuti giudicati inappropriati o sovversivi. Di fronte a queste notizie, di fronte a tutto ciò, sono arrivate le proteste e le critiche dell'Unione Europea e degli Stati Uniti che chiedono a Pechino di rinunciare all'imposizione del sistema di filtraggio. Il tutto dovrebbe diventare operativo a partire da mercoledì. MySpace, il social network di proprietà della News Corporation di Rupert Murdoch, ha annunciato il taglio di 2/3 della forza lavoro internazionale e di chiudere almeno 4 dei suoi uffici internazionali fuori dagli Stati Uniti. La scorsa settimana MySpace aveva già annunciato il taglio del 30% del suo staff all'interno degli Stati Uniti. Il Pentagono avrà da ottobre un Cyber Command con il compito di monitorare e proteggere le reti militari dagli attacchi informatici. Il comando cibernetico sarà integrato ai vertici del Pentagono. Comunque anche l'Italia si muove verso questi nuovi scenari. Martedì è stato inaugurato a Roma il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche. Il nome è molto lungo, anche la struttura è complessa, gestita dalla polizia, conta su 2.000 agenti che lavorano 24 ore su 24. Il compito del centro è quello di difendere le infrastrutture critiche informatizzate dalla minaccia criminale o terroristica rappresentata da attacchi che utilizzano internet. In questo caso parliamo di una struttura di difesa civile, mentre quando parliamo del Cyber Command degli Stati Uniti parliamo invece di una infrastruttura che è integrata all'interno dei vertici militari. Parliamo della TV digitale terrestre. Spente le frequenze analogiche di Rai 2 e Rete 4 nel Lazio circa 10 giorni fa, siamo a meno della metà del programma che prevede il completo passaggio al digitale nel 2012. Una cosa interessante da notare è che si sta registrando una sottoutilizzazione dei bonus per l'acquisto dei decoder interattivi. Pensate che a coloro che hanno più di 65 anni, un reddito annuale inferiore ai 10.000 euro e siano in regola con il canone RAI, sono erogabili fino a 50 euro di contributo. Fino a qualche giorno fa, su circa 130.000 aventi diritto nel Lazio, solo 7.400 ne hanno usufruito. Questo può significare tante cose e in particolare che molti hanno preferito acquistare un semplice decoder per sintonizzare i soli canali, il cosiddetto zapper, per cui appunto non è previsto il contributo. Da qualche giorno anche gli Stati Uniti hanno fatto il passaggio al digitale terrestre, ma in una modalità diversa rispetto a quella dell'Italia, come ci ha spiegato Mary Ann Krause della E.G. Krause, che organizza in tutto il mondo Expo.com, che farà tappa a novembre anche a Roma e che ha scelto come tema portante quello della TV digitale terrestre. The switchover in the US we decided to have in one occasion on one date for the entire country. Come sentite, gli Stati Uniti hanno deciso di passare alla tecnologia digitale, fare il cosiddetto switch off, quindi lo spegnimento dell'analogico e l'accensione del digitale in un'unica data, a metà del mese di giugno. Anche negli Stati Uniti c'è stato qualche ritardo per un po' di confusione, soprattutto della gente che non ancora aveva adeguato le proprie TV. Quindi da febbraio si è passati a giugno, ma in tutto il paese si è passati in una notte alla nuova tecnologia. Ma di questo vogliamo parlare anche con Andrea Ambrogetti, che è presidente del consorzio DigiTV per lo sviluppo della TV digitale terrestre in Italia, per capire quali saranno, dopo il Lazio, dopo Roma, i prossimi passaggi del cosiddetto switchover, cioè lo spegnimento graduale. Si parte, come sappiamo, da Rai 2 e Rete 4. La campagna inizierà il suo tragitto nel mese di settembre per concludere auspicabilmente entro l'anno. Devo dire la verità che il passaggio di Roma ha dimostrato, non solo perché è la capitale, ma anche perché, come dire, è un'area che appunto coinvolgeva oltre 4 milioni e mezzo di persone, che il primo passaggio al digitale costituito dallo switch over ormai incomincia a essere un po' un dato acquisito dal paese e quindi, come dire, costituisce un precedente ormai importante, proprio perché non è limitato ad aree tutto sommato più marginali rispetto alla capitale, che questo passaggio può essere un passaggio replicato più o meno in tutte le aree del paese. Altro tema ovviamente più impegnativo è lo switch off, dove invece c'è il passaggio complessivo, su cui però con questa tappa di avvicinamento siamo, come dire, tutti fiduciosi che si possa fare. Ecco. Quale sarà l'area del paese per prima spegnere completamente le frequenze? Diciamo, a parte la Sardegna che è già stata fatta, ma dove le cose sono un po' più semplici, diciamo così. Sì, sì. Beh, sul continente invece? No, sul continente noi abbiamo, diciamo come progressione geografica, iniziare da metà settembre la Val d'Aosta, poi avremo il Piemonte occidentale, cioè Torino e Cuneo, poi avremo il Trentino Alto Adige, e poi avremo Roma e quindi la Campania. Senta, alcuni ascoltatori ci hanno fatto una domanda, visto che recentemente noi abbiamo parlato dello switch off che è avvenuto negli Stati Uniti e là si è deciso di far tutto, anche se c'è stato uno slittamento, di far tutto in un giorno. Ecco, in Italia perché è stato scelto questo calendario? C'è un motivo molto semplice, perché l'Italia, insieme soprattutto la Francia e la Spagna, in parte l'Inghilterra, sono i paesi del mondo in cui la ricezione televisiva via terrestre è la ricezione ancora più diffusa. Noi siamo in Italia intorno all'85% dell'utenza che riceve solo esclusivamente via antenna tradizionale, per capirci. Negli Stati Uniti, per esempio, questa è una percentuale che è ridotta al 30%, perché ormai lì il cavo, il satellite, eccetera, hanno una diffusione assolutamente più importante. Quindi, avendo questo panorama televisivo, l'idea, che è un'idea, come dire, che è giusta e ci viene confermata dal fatto che, avendo accettato noi di fare un primo passaggio di alcune reti e poi delle altre, questa stessa idea ci è stata in qualche modo copiata, tra virgolette, dall'Inghilterra, che infatti anticipa il passaggio di una rete di BBC prima, è proprio il passaggio per rendere più dolce, diciamo così, meno traumatico, perché in questi mesi, che sono 4-5 mesi che separano il passaggio di Rai 2 Rete 4 al passaggio definitivo, tutti hanno la possibilità non solo di conoscere quello che sta avvenendo, ma anche di verificare che se dentro la propria abitazione non hanno una ricezione ottimale del digitale, hanno 4-5 mesi di tempo per poter sostanzialmente intervenire, sia a livello di sintonizzazione, sia a livello di antenna, sia a livello di copertura, e quindi abbiamo la possibilità appunto di fare un passaggio più morbido. Voi come consorzio DigiTV siete molto attivi nella, diciamo così, certificazione del materiale che gli utenti acquistano con una serie di bollini che avete concordato con i produttori di tecnologia. Lei saprà, e anche qua le giro una serie di domande che ci sono state fatte, che ci sono dei prodotti in modo particolare DVD recorder che in alcuni casi hanno ancora il vecchio decoder analogico. Ecco, su questo fronte vedremo presto, ci saranno delle novità o è difficile mettere d'accordo tutti i produttori? È difficile mettere d'accordo tutti i produttori, va da sé, perché sono quasi un centinaio in Italia tra televisori e ricevitori digitali. Il tema però è il seguente, distinguiamo. Da una parte c'è una legge dello Stato che obbliga qualsiasi tipo di ricevitore da aprile dello scorso anno a non poter più essere commercializzato se non ha, oltre a un ricevitore analogico, anche un ricevitore digitale. Per cui il caso che appunto in particolare lei mi sta facendo dei DVD recorder che hanno solo un tunnel analogico, semplicemente vanno avvisati gli ascoltatori che sono fuori legge, e anche i venditori che, come dire, continuano probabilmente per smaltire i fondi di magazzino a commercializzare questo tipo di prodotti, fanno un atto contro legge. E quindi su questo sarebbe bene che le autorità preposte intervenissero. Altro discorso è il discorso dei bollini, perché il discorso dei bollini è un'iniziativa che appunto come DigiTV abbiamo fatto a tutela ovviamente innanzitutto degli utenti, ma anche di chi trasmette, nel senso che noi vogliamo essere certi che tutti possano prendere tutte le trasmissioni e i servizi che vengono proposte. Per questo l'iniziativa del bollino, che è sia sui decoder sia sui televisori, certifica in qualche modo la tranquillità da parte dell'utente che quel tipo di prodotto può essere un prodotto che li tranquillizza, perché possono ricevere senza nessun problema i programmi di tutti. Capisco che dall'altra parte ci siano delle necessità di fare economia, per cui ci sono anche dei prodotti a basso prezzo. ovviamente chi, come dire, per legittime esigenze va a comprare un ricevitore che costa magari 29 euro, se c'ha di fronte, che magari viene dalla Cina, alcune disfunzioni, è difficile che se la possa prendere con il sistema. È come se io comprasse un telefonino a 19 euro e poi dico prende male il campo, non riesco a sentire, non riesco a parlare. Come dire, bisogna contemperare le diverse esigenze. Quello che posso dire è che chi oggi compra un qualsiasi prodotto col bollino è in grado di essere certo che non avrà brutte sorprese. Quindi il bollino esiste anche sui videoregistratori oppure no? No, il bollino esiste sui decoder e sono decoder ovviamente completi, cioè che hanno il tema dell'interattività, il tema dei servizi, il tema delle televisioni a pagamento, e sui televisori che hanno al loro interno il decoder integrato che assicurano lo stesso tipo di servizio. Quindi diciamo andrebbe messo anche sui videoregistratori, diciamo così. Ma sui videoregistratori, come dire, se non hanno all'interno il ricevitore digitale sono fuori legge e non si può mettere nessun bollino, non so se... Sì, ho capito, cioè lei dice dovrebbero essere tutti adeguatamente conformi alla legge. Esattamente. Al di là dei bollini, insomma. Esattamente. Bene, grazie quindi ad Andrea Ambrogetti, presidente di DigiTV, il consorzio per lo sviluppo della TV digitale terrestre in Italia. Adesso cambiamo argomento, parliamo di tecnologia e finanziatori per lanciare una nuova azienda, non solo per ricercatori che vogliono uscire dall'ambito della ricerca, dall'università e vogliono diventare uomini di business, sono necessari finanziamenti. Beh, anche in Italia sono attivi, oltre ai venture capitalist, anche i cosiddetti business angels. Ne abbiamo parlato con Paolo Anselmo, che è presidente dell'associazione che li comprende in Italia. Paolo Anselmo è presidente appunto di IBAN. Grazie a un'indagine fatta all'inizio dell'anno con il supporto della SDA Bocconi e quindi grazie alla realizzazione di un survey, oggi possiamo dire che definitivamente che il business angel è una persona fisica, generalmente un maschio, generalmente tra i 40 e i 50 anni, con un'esperienza pregressa da imprenditore piuttosto che da manager, che investe una quota parte della sua liquidità all'interno di giovani aziende. Quando parliamo di giovani aziende, spesso parliamo di giovani aziende che investono in qualche modo in tecnologia, dico bene? Quando parliamo di giovani aziende, parliamo di aziende da poco costituite o diciamo addirittura costituite a seguito dell'investimento, che sono attive nel settore ICT piuttosto che nel settore internet, piuttosto che nella manifattura, piuttosto che nei servizi avanzati, cioè aziende che possono generare dei margini di contribuzione degli utili nel breve periodo. Ma sicuramente le aziende innovative e interessanti in Italia ci sono e nascono. È emerso da una serie di dati che purtroppo ad oggi non esiste uno specifico osservatorio che puntualmente è in grado di misurare quello che il sistema Italia è in grado di generare. Diciamo, incrociando diversi dati, a oggi abbiamo la certezza che più o meno nascono 500 aziende interessanti dal punto di vista tecnologico all'anno. La metà di queste sono accolte, sono ospitate all'interno del sistema dei parchi scientifici e tecnologici piuttosto che degli incubatori. La seconda metà è direttamente finanziata in equity, quindi con la partecipazione al capitale di rischio, da parte di venture capitalist piuttosto che business angel, piuttosto che fondi di provenienza nazionale. La metà di questa metà, quindi sostanzialmente 120-130 aziende, sono finanziate da business angel, quindi i business angel rappresentano di fatto la modalità di far nascere un quarto delle imprese innovative italiane. Quindi questo è anche un messaggio di, diciamo, di speranza per i giovani che vogliono innovare e vogliono entrare nel mercato, cioè c'è la possibilità di trovare un supporto finanziario. C'è la possibilità di trovare sicuramente un supporto finanziario. Nel 2008 il sistema dei business angel ha ricevuto circa 700 proposte di investimento e ne ha finanziate 120, quindi sostanzialmente uno su sei. Continua a esserci una discreta volontà di creare impresa. Da inizio anno ad oggi IBAN ha ricevuto 170 proposte di investimento. Quindi quello che è emerso oggi è che, a differenza di altri paesi, l'Italia nella creazione di start-up tecnologiche, nella creazione di start-up innovative, non ha subito lo stop che viceversa altri paesi hanno subito. L'Italia 2008 rispetto al 2007 è cresciuta del 50%, gli Stati Uniti sono diminuiti del 26%. Quindi da questo punto di vista la capacità di creare aziende performanti e capaci in Italia è vincente, altrove no. Senta, se volessimo fare un confronto tra la nostra situazione e quella di altri paesi europei vicini al nostro, come possono essere la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna, qual è la situazione rispetto a questi paesi? La situazione è in termini assoluti peggiore in Italia, ma unicamente per un motivo semplice: in Italia non esistono tutti quelli che sono gli strumenti a supporto dell'investitore. Se anche in Italia si implementassero le stesse misure a supporto dell'investitore, cioè detassazione di perdite pregresse piuttosto che detassazione di capital gain da iniziative diverse per nuove tipologie di investimenti, quindi diciamo una sorta di Tremonti Ter ad hoc per il capitale di rischio, sono certo che i numeri che potremmo presentare relativamente all'Italia sarebbero del tutto paragonabili a quello del Regno Unito piuttosto che della Francia, cioè almeno tre volte tanto. Senta, se lei dovesse identificare, cioè essere più specifico sul settore e sulle tecnologie dove molto più facilmente gli investitori, e quindi business angels che fanno parte della vostra associazione, che hanno investito, ecco, in quali direzioni ci sono maggiori attenzioni? Diciamo che, guardando i dati del 2008, sicuramente c'è un forte interesse verso tutto quello che è il mondo ICT, tutto quello che è il mondo internet. Personalmente io sono molto interessato a tutto quello che sono gli investimenti relativi al settore energetico. C'è anche un discreto interesse nei confronti del settore dei medicali piuttosto che del biotech. Quindi sostanzialmente tutti quelli che sono i settori in grado di generare un vero valore aggiunto. Meno interesse c'è nei confronti dei servizi alle persone, ma perché poi diventa sostanzialmente più complicato trovare una way out di tipo finanziario sui servizi alle persone. E così concludiamo la nostra puntata, questa puntata di 2024, più breve del solito per lasciare spazio all'ultima puntata della settimana dei Magnifici dedicata ai Pooh. Ieri, come sapete, abbiamo dedicato il venerdì a Michael Jackson e quindi abbiamo fatto slittare ad oggi l'ultima puntata. Torneremo la prossima settimana sempre con la nostra consueta programmazione di un'ora. Ci trovate anche su internet www.radio24.it. Il nostro indirizzo digitale di posta elettronica è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi motivo. La prossima settimana ascolteremo insieme un'interessante intervista a Marco Pifferi, uno dei programmatori del mondo Mac e del mondo iPhone più geniali, potremmo dire così, che ha inventato e ha lanciato con grande successo Around Me, una delle applicazioni più scaricate dall'iTunes, dall'Application Store della Apple. Bene, vi saluto, ringrazio Luigi Borghi in redazione, noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre nel pomeriggio del sabato di Radio 24. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.